Francesco, sì, Francesco Renga. Sicuro. Se non sei sicuro, ti assicura. Ma c'è Gio Maria, è gufo, mi gufo a Rusenni in terrazzo, mi dovevo cuore da noi. Sicuro sta facendo un terrazzo, con questa pioggia, non sai macchino. E piscicando un'acquaglia, lo vengo io. Magari. Un'acquaglia piscicando, lo vengo io. Vedendolo, lo vedo mi. Ah, l'acquaglia, e allora siamo a posto. E io? Oh, iaia. Ciucucciu. Non c'è suonato, Luca? Aspetta, gufo, mica ti vedo, cosa si fa accendo nella finestra? Non parli, ah, non parli? Vuoi parlare con un muro, gufo? Io te l'appoggio. Vedi se banale calciofi quanto qui mi devi dire, avvicinatevi a questa macchina. Ciucucciu, che vuole entrare in PMR? Nessuno. Marco, ci sei? Marco Condor? Marco, ci sei? No, c'è sì. E allora, dottore, mi calicca tutto. Sì, anche acqua. Stasera l'ha fatto un pochettino di gocce. Non molte, ma già ne ha fatto. Ah beh, quello sì, No, non c'è nessuno, ho visto. No, magari stanno tutti in giro, cosa ne so io. Niente, la verità. La verità, nulla. Vabbè, ti chiamo fra un po' là che sto uscendo. Ci sentiamo fra poco. Ti chiamo in viaggio. Ok, a fra poco. No, pigliami... Cioè, bevo la birra da coso e poi mi piglio le lattine, un paio di lattine, più che altro, per stanotte a cena. Poi domani esco con un amico e faccio la spesa che devo fare per dopodomani. Ah, cico da coso, da fratello Giuseppe. E appunto per quello, faccio più che altro per le gambe, mi. Faccio per altro, stamattina non riuscivo neanche a camminare, cazzo. La foto è stata dentro al letto. Stavo già girando i coglioni a meditare così. Faccio un giro, faccio una passeggiata, non ci riesco più a stare fermo. Faccio un giro, mi bevo una birra, poi salgo, piglio quello che devo pigliare, dopodiché domani riesco a pigliarmi il resto. E intanto già mi senti, già ti chiamo scendendo via Calofrici. Bello bello, andiamo a posto, cosa vuoi fa? Passa sulla 27, che è meglio.